Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Marzo e aprile del 1861. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento, puntata speciale. L'Italia è ufficialmente nata il 17 marzo, il nuovo Stato è stato proclamato, ma già sul suo futuro si addensano nubi minacciose. Il punto in diretta con Paolo Piacenza. Paolo. Buongiorno Simone, domenica 17 marzo a mezzogiorno i cannoni di ogni città italiana hanno sparato 101 salve di cannone come aveva ordinato il governo di Torino. Anche gli austriaci da Vicenza li hanno sentiti. La proclamazione del Regno d'Italia è arrivata così. Il 14 la Camera aveva approvato all'unanimità l'articolo unico già votato dal Senato. La mattina del 17 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge, l'ultima del Regno di Sardegna, la prima della nuova nazione. A Torino i festeggiamenti tutto sommato erano già stati grandiosi per il primo Parlamento. A celebrare l'evento sono state soprattutto le altre città, Genova e Firenze in particolare. Da allora, però, qualche settimana è già passata e tutti i problemi che il nuovo Stato deve affrontare stanno emergendo. Ci sembra di capire però che il pericolo più grosso arrivi dall'Austria. Eh sì, Vienna sta preparando una nuova guerra di aggressione, anzi di sterminio, ha scritto un giornale tedesco. Le manovre hanno provocato proteste dalla Francia, che però non ha ancora riconosciuto l'Italia, a differenza di Inghilterra e Stati Uniti. Poi c'è il problema del Mezzogiorno. Nigara scrive a Cavour lettere preoccupate sullo stato delle province del sud. Il tifo da Gaeta si è diffuso a Napoli e poi torme di ex borbonici, ma anche gruppetti di ex garibaldini rischiano di passare al brigantaggio. Cialdini ha annunciato il richiamo alle armi degli ex soldati del sud e delle camicie rosse con diritti e soldo, ma arriva un po' tardi e poi il trattamento delle ultime piazzaforti borboniche che hanno resistito ha offeso molti. A Messina niente onore delle armi dopo la resa, arresto di alcuni ufficiali. A Civitella del Tronto è stato fucilato un sacerdote, un cappellano delle truppe. Errori, ci sembra di poter dire, che rendono più difficile anche la soluzione della questione di Roma Capitale. L'obiettivo infatti sembra lontanissimo. In Francia Girolamo Bonaparte aveva pronunciato un discorso favorevole all'italianità di Roma, poi però il governo francese ha ribadito al Papa il proprio appoggio. Cavour dalla Camera ha lanciato un appello al pontefice, ha proclamato il principio libera chiesa in libero stato, ma Pio IX continua a lanciare anatemi mentre il suo ospite forzato, l'ex sovrano di Napoli Francesco II, ordisce trame per la rivolta del sud. Come se non bastasse tutto questo, ci sono anche problemi politici interni. E così alla Camera ha fatto notizia lo scontro tra Garibaldi e Cavour. Il generale, per protestare contro il trattamento riservato ai garibaldini, ha attaccato il governo con una tale violenza da essere ripreso dal presidente Rattazzi. Cavour si considera insultato, i due non si sono riconciliati, però sembrano disposti a mettere da parte la cosa di fronte al rischio di una guerra. Grazie Paolo Piacenza. Prima di salutarvi, un'importante notizia da oltreoceano. Il 12 aprile uno scontro tra federali e sudisti in Carolina del Sud ha spinto il presidente unionista Lincoln a inviare truppe. In risposta Virginia, Arkansas, North Carolina e Tennessee hanno aderito alla Confederazione ed è scoppiata la guerra civile. Anche ex garibaldini, ex sabaudi ed ex borbonici vengono arruolati nei due eserciti, primi soprattutto tra i soldati in divisa blu. Anche tra le giacche grigie ci sarebbero delle Garibaldi Guards, sconfessate però dall'eroe di Caprera, che si dice amico di Lincoln. Ed è tutto, venite a visitare la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento là, oppure fatelo a gazzettino@radio24.it. Andate sul nostro sito e scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.